romanzo di San Carlo Borromeo, Le opere e i giorni di un intellettuale milanese, di Fabiola Giancotti. Capitolo VIII. La peste e l'immunità del tempo. Liber memorialis peste restincta, 1579. Quello firmato da San Carlo Borromeo costituisce forse il migliore e più paradossale trattato di immunologia. Importa un dettaglio nel memoriale ai milanesi. La peste non offre nessuno spettacolo sacrificale, irrimediabile, impenosa. Attuale ciascuna volta. Introduce un'identificazione, non una dipendenza. Con questa peste Milano viene scaraventata nel tempo. Sulla peste molte cronache, ma su quella di Milano del 1576, nota come la peste di San Carlo, abbiamo trovato una testimonianza davvero interessante, quasi una lettura, quasi una restituzione. Inserito nelle Storie Patrie, incastonato tra i fatti della peste del 1524 e di quella del 1630, è un testo breve di Giuseppe Ripamonti, storico, scrittore, a volte poeta. Proponiamo la traduzione del Dandolo del 1856, che lo pubblica anche come materiale delle sue ricerche. Nel 1524, dalla peste la città esce prostrata, debole, decimata, senza avere tratto nessun elemento per la ricostruzione. La peste, utile soltanto per la morte. Così cominciò. La peste del 1524. Ma prima sporrò un avvenimento tocco alla nostra città, più brutto ancora del sopravvenirle di quel re nemico, vo dir la peste, la qual, mentre il re muoveva di casa sua con l'esercito e superava le Alpi avanzandosi a grandi giornate, stremò con la infezione e coi funerali Milano. E dall'arrivare dei francesi diella ad essi mano a porte spalancate, co cittadini che eragli rimasi per sé vinti e incatenati. Principiò la moria ad Abbiate, ove Bonivet, venuto da Chiaravalle, avea posto il quartiere. Di là, diffusa per le vicinanze, facilmente penetrò dentro le mura e le invase, occupandovi i corpi e le case, per contagio delle masserizie che i già marci francesi, lorché furono cacciati, aveano lasciate dietro di sé. E primamente molti soldati al contatto di quelle robe ammalaron e morirono, indi chi li curava e chi li visitava, e chi, rendendo lor qualche servigio, toccavali, vicini, servi, amici. Chiunque ne aveva anche unicamente spirato l'alito e tocco il vestimento, ecco che assorbiva il male e trasferivalo ad altri, i quali alla lor volta contaminavano altri molti con la presenza, col fiato, sicché spargendosi ovunque il contagio più ratto che non si crederebbe, la intera città n'andò presa. E moltitudine di morenti vi fu vista giacer allato a moltitudine di morti, sendo che vennero pretermesse le consuete cure di rimuovere le miserande reliquie a cui gli sguardi inorriditi de superstiti rifuggono. Questo vituperio era alimento ed accrescimento del male. Giaceano infatti per le vie e nelle vuote case a mucchi i cadaveri, minacciando d'ugual fine gli anco vivi, a quali il fetore, la malinconia e quelle fere immagini di morte null'altro desiderio lasciavano che di prestamente alla lor volta su quei mucchi cadere, unico rimedio apprestato dalla stessa moria. nell'assoluta assenza di una direzione. Assente l'arcivescovo, fuggiti i governanti, i mercenari ministri furono come mandriani di gregge altrui che al primo comparire della Moria fecero fardello e se ne andarono. E così finì. Dio si placò, finalmente, e al compiersi del pestilenzial anno, che fu il 1524 d.C., i milanesi trovaronsi spogli di qualsia metropolitana maestà, ridotti a piccolo, spregevole popolo. E siccome i corpi son presti a sciorsi, tardi a crescere, così lento fu il riaffollarsi della cittadinesca moltitudine. Gli atti a figliare scarsi, attoniti, vuoto il più delle case, disabitati anco i palagi, sotto ogni tetto splendido od umile solitudine e silenzio, vie e trivi teste gremiti di folla, vestiti sì d'erbe, simili a landa, e ciascun dei cittadini quasi alzasse il capo da scoperchiato avello spiar intorno, la tuttavia minacciosa fosca luce diurna, a gran fatica persuadendosi essersi mansuefatto il cielo, giacere smussati i dardi della pestilenza e la vita riappresentarsi assicurata. E però questa era veramente la condizione delle cose. Si poteva o mai respirare e di nuova progenie ristorar la città, a cui sovrimpendeva il re francese, quel desso che, allora vittorioso, indi a poco prigioniero, era destinato a riportare oltremonte la vergogna della sconfitta e ceppi da cui doveagli riuscir arduo disciorsi. Ripamonti fa di questa peste lontana materiale per pittori, ma gli serve anche per trovare elementi differenti nella peste di San Carlo. Altro, infatti, l'approccio, altra la conduzione, altra la dignità con cui Carlo Borromeo ha avuto l'audacia di combattere. Immediatamente, alla prima notizia della peste, l'arcivescovo è per Milano quella direzione che mai si era instaurata. I governanti, come in altre occasioni, fuggono, ma la gente non ha dubbi. Il Borromeo ha gli strumenti per non rendere mortifera la peste. Determinò che per 3 giorni vivessero supplicazioni in tutto il popolo continue, che tosto furono bandite. Bandite perché da ogni parte, compresa Roma, ogni peste doveva riproporre il ricordo del contagio e della morte, poiché così era il suo naturale sviluppo. Al cardinale, reduce da Lodi, si fece incontro, speditogli a furia dai decurioni, un corriere che a lui, pontefice e pastore, notificasse la calamità sovrimpendente al popolo, al gregge. Avvenne anche ogni gara di giurisdizione, ogni rivalità di poteri era sfumata, né più restava speranza altro che nell'uomo divino. Allo entrare che fece l'attonita città, scorgendo gran moltitudine in cocchi, su carri, a pie, ingombrar le vie, intenta a fuggire a campi prima che scisse decreto a trattenerla, è narrato che piangesse. Mosse di filato al Duomo, e quivi, adorato Dio, risalì la mula, e in veste da viaggio com'era, andò dritto alla casa da cui buccinavasi escito il contagio. Apparteneva a Robbi, gente patrizia, già nota a concittadini, ma che quel caso rese notissima. Quivi giunto, trovò che, morta la padrona con alquanti figli e servi, alcuni superstiti, colti dalla moria, sarebbero periti per mancanza di soccorso, se le pie suore di Sant'Orsola non fossero accorse a curarli. E quelli, acciò che non propagassero il male, per ordine del cardinale, furono tenuti in disparte ed impediti da qualsia comunicazione con sani. Passato di là al proprio palazzo, vi si diede ansiosamente co' suoi più fidati familiari e più prudenti ministri a consultare quai pastorali soccorsi avessero a prestare, caso che il morbo, com'era da prevedere, allargasse le sue devastazioni, e quali esempi, a questo proposito, somministrassero gli annali cittadini e le rimembranze patrie, non per anco svanite. Con ciò si accosa che, al diffondersi dei primi terrori, erano emerse commemorazioni senza fine d'antiche e moderne pestilenze. Al cardinale che le raccoglieva, consultava e studiava, fecersi innanzi i principali della città e i regi i ministri, a pregarlo che contro il micidial morbo invocasse, anzitutto, a pro della patria in pericolo, l'aiuto di Dio. Indi, nello stupore e nella desolazione che li avea colti, soccorresseli d'un qualche salutare avviso. Avendoli egli brevemente intrattenuti e benignamente confortati, li rimandò e, tornato alle sue consulte, determinò che per 3 giorni v'avessero supplicazioni di tutto il popolo continue che tosto furon bandite. Ugualmente scuri in volto e turbati nell'animo, convennervi i magistrati, i patrizi, i plebei, quanti n'avea lasciati in città lo sgomento. Perciò che gran turba, come accennammo, al primo terrore se n'era fuggita, quasi che gli aperti campi e gli ameni ripostigli potessero esser riparo alle saette dell'ira celeste. Carlo s'era da principio proposto di prodigare le sue pastorali cure ovunque fosse vista infierire la pestilenza, senza rispetto a checché sgomenta l'anima umana per la imminenza del pericolo. E quantunque avesse ciò seco stesso fermato, nullameno piegato dalle rimostranze di autorevoli personaggi, s'indusse a raccogliere il suo clero a consulta e richiederlo se era lecito a vescovo esporre ad evidente risico la vita nell'adempimento dei pastorali uffici. Sorsero disputazioni tra gli assembrati, accordatisi per ultimo a dire non esser lecito a vescovo affrontare un certo attuale pericolo come farebbe chi aspirasse sgomberarsi d'attorno d'un colpo i tedii della vita, avido di scaricarsene anzitempo. Udita la qual sentenza, replicò il cardinale, considerando le azioni degli antichi pontefici, lor geste, lor morti, riscontrarle egli piene di virtù, di costanza, mercè cui si fatti uomini sublimi disprezzarono la morte, anzi l'affrontarono ogni qualvolta si trattò di servire alla comune salute. Gravi personaggi presero allora a dire: esistere infatti antichi esempi di così severa virtù, ma quei tempi esser passati, né tai fatti narrarsi che di santi. Replicò il cardinale: appunto per questo star bene che il vescovo imiti cotali esempi e provisi a calcare le vie stesse che addussero quegli antichi al cielo. Detto questo, sciolse l'adunanza, stese il suo testamento come se fosse in punto di morte, distribuì danaro a familiari, sborsò a ciascuno la mercede de prestati servigi e all'ospital maggiore legò tutto quanto lo avere di cui sarebbe stato trovato possessore all'epoca del trapasso, e così, libero e spedito da qualsia briga, intrepidamente di essi a frequentare il lazzaretto, che era tenuto in conto di casa di funerali e col solo nome suscitava orrore per la peste come impropria reggia stanziata, per cadaveri di cui era coperta la funerea campagna e per le sozzure del morbo che l'ingombravano, peggiori del morbo stesso. Già nel racconto del Ripamonti il Borromeo non è fatalista. Si documenta negli archivi, acquisisce nozioni di medicina, di economia, per la distribuzione del cibo, dei vestiti, per l'organizzazione delle cure, ma anzitutto non lascia nessuno senza la parola e rilancia pratiche come la preghiera, la celebrazione eucaristica, i sacramenti, indice assemblee e concili. La ricognizione della devastazione nella sua città gli suggerisce non la pesantezza di un aiuto ultimo, ma la leggerezza di un intervento in cui chi non è collaboratore lo diviene. Gestisce un'emergenza per la quale nessuno poteva fornirgli un suggerimento sulla base di un'esperienza già vissuta. Combina le cose in modo che nulla ci sia da salvare o da preservare. Scrive in questa occasione il suo testamento. Utilizza risorse inimmaginate, accoglie proposte, scommette sull'intelligenza e lascia che la fede operi. Si constatò in quell'occasione che chi non si abbandonò diede una mano all'arcivescovo e ne acquisì in salute. Ciò nonostante, gli venivano opposte pratiche pagane, mitologie mediche, ottusità di ragionamenti, la credenza di poter gestire, contenere e arginare ed economizzare la disperazione, la morte, la parola, la vita. Carlo Borromeo trova giorno per giorno i modi per provvedere alle varie necessità delle persone colpite da contagio, ma pure rimaste in città e che a lui si affidavano. Contrastato e disapprovato dai notabili, le cui conoscenze rendevano loro incomprensibile il disegno, addirittura accusato e denunciato, l'arcivescovo mette in gioco le sue armi. Efficacissime, poiché sono quelle della parola, cioè la preghiera, la speranza, l'ascolto, la fede, il fare, il concludere. Nella partita ci sono la vita e la salute, la qualità di ciò che resta e di ciò che si scrive. Nel racconto anche l'intervento di San Sebastiano e il giorno della sua festa come festa che segue alla constatazione che la peste, come malattia, è estinta, che la peste non è più la morte. Il Ripamonti conclude il suo racconto e non considera questa peste naturalmente malefica e punitiva. L'onda lunga dell'era borromaica è appena incominciata e coinvolge l'inquieto Ripamonti in modo interessante, poiché egli coglie in questa un'altra nozione di peste rispetto a quella del 1524 e a quella del 1630, da cui anche Manzoni attingerà per il suo romanzo. La peste di San Carlo, vivissima nella memoria dei milanesi proprio rispetto a Carlo Borromeo, severa come le altre, ma non altrettanto devastante in fatto di sterminio di uomini, forgiava la città e la rilanciava nella vita. Qualsiasi altra epidemia l'avrebbe lasciata morta, decimata, in cerca della fine e diffidente nella battaglia. Le testimonianze sono chiare al proposito. Storici, artisti, contabili, medici e governanti, l'unico spiraglio lo trovano nella peste di San Carlo. Tutto il resto è rappresentazione senza scrittura. Errate valutazioni, interventi intempestivi, presunzione di conoscenza e ancora credenze e paganesimi, accettazione della colpa e della pena, sprofondano Milano in un abisso senza ossimoro. I cibi corrotti e l'aria maligna, i vestiti, il caldo, la sporcizia e la miseria sono invece gli elementi su cui ragionano, per spiegare il contagio, i medici, noti all'epoca, il Settala e il Cardano, ma trovano soltanto rimedi, se non espedienti, di natura erboristica o superstiziosa. A fatica cominciano a enunciarsi le prime elementari regole igienico-sanitarie. Nel 1630 irrompe con prepotenza la caccia all'untore, non decisamente combattuta dai notabili dell'epoca, ma anzi in qualche modo tollerata, sostenuta e avvalorata con la condanna e la messa a morte dei responsabili. Il linciaggio legalizzato della colonna infame di trista memoria. Gregorio XIII, dopo l'anno santo del 1575 di Roma e quello del 1576, insolito, voluto a Milano dal Borromeo, interviene tempestivamente. Nessun pietismo e nessun abbandono. L'esercizio, l'occorrenza, la tranquillità e l'impossibile credenza o paura del contagio sono le argomentazioni del breve inviato a Milano e suggerite dal modo del cardinale, che, data la straordinaria occasione, indice straordinarie misure, processioni, digiuni, orazioni, indulgenze concesse per occasione della peste. Questa peste, dice San Cipriano, la quale ci pare piena di spavento, orribile et fiera, cerca diligentemente il debito ufficio di ciascuno, et va investigando i cuori degli uomini, et sta osservando se i sani servono agli infermi, se i parenti amano con vera pietà i loro congiunti, se i padroni si mostrano compassionevoli verso i loro servitori infermi, se i medici, pregati dagli ammalati, abbandonano la loro cura, se gli uomini bestiali rimettono la loro fierezza, se i rapaci avari ammorzano quell'insaziabile ardore d'avarizia, almeno per timor della morte, se i superbi abbassano le loro alterezze, se i ribaldi depongono la loro scelleratezza, se i ricchi, che morti i loro figliuoli passeranno da questa vita senza successore, danno et donano volentieri le loro sostanze. Esortiamo dunque tutti voi che ciascuno per la sua parte sovvenga alle necessità e bisogni sì degli infermi, sì degli altri uomini esclusi dal comun consorzio et sequestrati per sospetto di peste. Né vogliate buttar via sì grande occasione di meritare la somma et infinita grazia da Dio onnipotente, et abbiate per certo che le vostre fatiche et tutte le vostre opere, le quali ponerete in ciò, molto più giovaranno alla vostra salute che a quelli da quali avrete cacciato il male, imperocché a quelli prorogarete questa breve et fugace vita, et a voi stessi farete strada per arrivare a certissima et sempiterna felicità. Non vi è occasione alcuna che voi temiate tal pericolo di contagione. Già avviate per la celebrazione dell'anno santo, queste misure trovano ora la loro ragione e la loro logica. La qualità e l'efficacia di tali istituti manterranno vivi i milanesi, scongiurando loro la manifesta offesa, l'inestimabile danno e l'evidente ruina di una naturale e dilagante contagione. Questo è il principal rimedio, senza il quale dobbiamo temere che poco frutto reale siano per apportare tutte le diligenze della prudenza umana in questo pubblico bisogno. Abbiamo visto con l'esperienza, non senza nostro gran dolore appresso agli altri innumerabili peccati, quali han provocato l'ira di Dio a mandar sopra questa città il flagello della peste, la sfrenata ed insaziabile avarizia di molti, quali dimenticati affatto della propria salute, del timor divino, della carità del prossimo et dell'obbedienza che devono ai superiori, non si sono astenuti di robbare, nascondere e trasportare da un luogo a un altro robe o panni ammorbati o sospetti di contagione, onde si è dato non picciolo impedimento alla total liberazione di questo male. E tacciò non si cammini in tenebre, né si inganni alcuno col far giudizio che sia cosa leggera o di niuna colpa, quel che in sostanza è più grave et pernicioso. Noi, con questo pubblico editto, dichiariamo che niuno fin qui ha possuto, et maggiormente non potrà da ora innanzi, contra li precetti et ordinazioni dei superiori, pigliare, contrattare, robbare, nascondere, trasportare d'un in un altro luogo, né in qualsivoglia modo, né sotto qualsivoglia pretesto ingerirsi a por le mani nelle robbe o panni, non solo dei altri, ma neanche nelle suoi propri, che saranno infetti o sospetti di contagione, senza certezza di incorrere nella colpa di peccato mortale, il cui frutto è la dannazione eterna. Poiché, come già si è detto, da questo tal disordine e dispregio di precetti dei superiori e principalmente di comandamenti divini, nasce non solamente la manifesta offesa di sua divina maestà, ma anche l'inestimabile danno del prossimo, e te ne può risultare l'evidente ruina quasi di tutta la città. Et vi anco certa coniettura che tal contagione ogni volta che non si estingua sia per dilatarsi alle città e te luoghi convicini. Perciò ciascuna pratica liturgica, pastorale, ecclesiastica trova modo di rilanciarsi, trova il motivo e l'autenticità che il Concilio Tridentino si era imposto di restituire ai cristiani. Gli atti della Chiesa milanese si arricchiranno di dettagli, norme, formalizzazioni, scrittura, articoli, note, lettere e documenti, materiale ancora oggi prezioso. La peste, la sanità. Il Borromeo parla di sanità in tempo di peste, quando ciascun elemento della vita si mette in gioco, non quando ognuno cede alla vita lasciandosi prendere dalla paura del pericolo, quando ognuno, malato di peste, crede di poter guarire dalla peste oppure di soccombere alla peste. Il cardinale dispone la sua giornata e organizza i vari dispositivi, sino a che il tempo non ne provi la sanità. Questa è l'occasione, tale è l'occorrenza, non si avanzano alternative. Vediamo poi molti in mezzo a tali pericoli sfuggire la morte e molti invece, abbattuti dal timore, piuttosto incontrarla. Il rischio e l'impossibile economia della morte, incolumità e immunità. Peraltro ciascuno può lusingarsi di rimanere incolume, e con maggiore ragione che non altri, molti quasi senza numero, cui veggiamo correre di continuo senza cautela e anche senza ritegno dove più infierisce la pestilenza. Se alcuno poi contraesse il morbo, quando altri venissero a mancare, io stesso, che sarò in mezzo a voi ogni giorno per soccorrere i bisognosi, mi presenterò. Io prenderò a cuore la duplice vostra salute. Io accorrerò volentieri a sovvenirvi, e già da questo istante a voi mi offro ministro dei sacramenti se lo richiederà il bisogno. Io, che confidando nel divino aiuto, ho fermo di non risparmiare fatiche o pericoli per compiere il mio pastorale ufficio e contribuire alla salute del gregge commessomi con tutti i mezzi che saranno in mio potere. L'appello è per quelli più vicini, i suoi sacerdoti, coloro che dell'arcivescovo hanno seguito le omelie, le istruzioni e con cui si è consultato e ha lavorato. Quella struttura di base su cui si regge la Chiesa milanese. Ma quale impegno per dissolvere la paura? Io stesso prenderò a cuore la duplice vostra salute con tutti i mezzi che saranno in mio potere. Il 22 febbraio 1579 il Borromeo annuncia entro Pasqua la pubblicazione del memoriale. Per aiuto di questi buoni principi e per debito dell'ufficio nostro, in occasione di beneficio tanto importante, cioè di Milano si può dire rinasciuto con questa divina liberazione, ci risolvessimo allora a non contentarci dei ricordi dativi in voce, ma raccontarveli anche in un breve libretto, almeno alcuni punti di essi più principali, sotto titolo di memoriale. Ma non lo dessimo fuori a quel tempo, parendoci che per allora fosse più necessario occuparli in molte altre nostre pastorali sollecitudini con noi, che in darvi memoria scritta di beneficio così insigne come quello che Dio ci aveva fatto pure allora, et degli obblighi nostri per esso tanto manifesti, et di tutti quegli uffici, insomma, che così di recente vi avevamo ricordato pienamente in voce. Non era bisogno qui d'altri memoriali, dove continua Dio a munirvi con i suoi flagelli, et noi ancora come pastor vostro vi abbiamo invitati e importunati istantemente per tutti i mezzi a questi uffici. Questi stessi motivi sono tanti memoriali vivi, usciti dalla bocca di Dio, per chi vuol dare orecchi alle sue voci. O figliuoli, dov'è l'intelletto? Dov'è la memoria? Dov'è il cuor vostro? Siete così fuor di voi? Così tosto siete scordati della peste e poi della sanità ricevuta? Siete smemorati, scordati, e non avete cuore, avete occhi e non vedete. Orecchie e non udite quello che bisogna per la salute vostra. Siete dunque così scordati di voi? Ora sì, carissimi figliuoli, che vedo necessario non differir di darvi fuori quel nostro libretto intitolato Memoriale, perché possiate avere innanzi agli occhi con che rinnovare la memoria dei nostri obblighi con Dio benedetto, in occasione della passata pestilenza e de sua liberazione, e non abbiate pretesto di scusa più di vivere a caso, né come smemorati et scordati di quel segnalato beneficio. Verrà dunque stampato il memoriale ed uscirà questa Pasqua con la divina grazia. In quel tempo, appunto, che molti uomini, come smemorati e scordati in un tratto di essere in quei santi giorni lavati dai peccati loro nel prezioso sangue del Salvator nostro, risanati nelle sue piaghe santissime, vivificati nella sua morte e seco consepolti all'uomo vecchio e con resuscitati ad una nuova vita di grazia, subito sogliono così vergognosamente ritornare ai peccati e ricader nel sordido fango delle sue immondizie e far così mortali recidive. A quel tempo uscirà il memoriale, il quale non meno vi servirà a tener memoria di quel grande beneficio della vostra redenzione e santificazione dell'anima e degli uffici i quali perciò dovete a Dio, che nella liberazione passata della peste e degli obblighi vostri di gratitudine per questo conto. Analisi speciale la sua. L'espressione memoriali vivi, che introduce come modalità del racconto, è efficace e si combina con l'incessante orazione, con la gratitudine, con la sanità, con la scrittura dell'esperienza. Mai acquisiti una volta per tutte, questi elementi, nella narrazione, nella lettura e nella scrittura, sono sempre nuovi. Perciò questo libretto, perché non abbiate pretesto di scusa più di vivere a caso, né come smemorati e scordati. Il memoriale vivo, la memoria di ciò che non è mai stato. Deciso a pubblicarlo per scongiurare il ricordo della rovina, della punizione, della morte. Deciso a pubblicarlo per esporlo ciascuna volta alla lettura, all'oralità, all'ascolto, il quale vediamo non tanto come compendio di tutti i nostri ragionamenti passati, quanto per memoriale perpetuo della grazia ricevuta e di quel che per rispetto ad essa dovete fare. Ma perché i ragionamenti sodono una volta e solamente da quelli che vi sono presenti, ne arrivano in tutti i luoghi. Ebbene, spesso, se non sono sovente ripetiti, si scordano in tutto o in parte. Noi, a ciò che tutti voi e in ogni luogo e tempo siate eccitati a conoscere e riconoscere con frutto il beneficio ricevuto, abbiamo voluto, quel che vi è stato da noi in più volte sopra di ciò diffusamente detto, raccogliere tutto brevemente in questo libretto, il quale vi diamo non tanto come un compendio di tutti i nostri ragionamenti passati, quanto per memoriale perpetuo della grazia ricevuta e di quel che per rispetto di essa dovete fare. E di qui è che l'intitoliamo e chiamiamo memoriale, il quale avemo diviso in due parti. Nella prima parte vi proponemo quattro capi, che tutti mirano a uno solo, cioè conoscere bene, come abbiamo detto, la grazia ricevuta dalla mano di Dio. Nella seconda, distinta pure in alcuni altri capi, trattiamo qualche parte degli uffici, con i quali voi dovete perpetuamente e riconoscerla e farne frutto per salute e ben vostro. Nelle cronache delle varie pestilenze, il fuggi-fuggi è generale, anzitutto rispetto alla questione intellettuale, dunque alla battaglia. La severità e la sordità con cui si cerca di aggiustare le cose generano una dipendenza psicofarmacologica. In questa estrema provocazione, quel che importa è contenere la disperazione, economizzare il male e la morte, rendere tutto accettabile. Sono uomini che si reputano licito tutto quello che possono. Sono uomini che si possono permettere tutto. Il Borromeo non adotta queste misure. La sua forza è quella di non saperne nulla, di non avere l'intelletto offuscato di chi si appoggia alla gloria di questo mondo, siano essi poveri o ricchi, e di non sottrarsi all'occorrenza, così vicini alle porte della morte, siamo rimasti vivi. Ma ora ritorniamo a quel che principalmente ci avevamo proposto in questo memoriale, cioè che tutti conosciamo la grandezza del beneficio che la misericordia di Dio ci ha fatto di liberarci dalla peste. Per conoscerla, figliuoli, non occorre cercare da lungi testimoni. Tutti noi, che in così manifesto pericolo, così vicini alle porte della morte, siamo restati vivi, possiamo attestare e predicare che abbiamo ricevuto di nuovo la vita. Milano, prima e dopo la peste del 1576. Pochi anni dal 1524, pochi anni dal 1630. Dalla disforia all'euforia, di nuovo alla disforia. Fuggivano i grandi, fuggivano i bassi, ti abbandonarono allora tanti e nobili e plebei nel ricordo di ciò che era stato. Tu, Milano, restasti come fuor di te, stupito, incantato, senza lucidità, in preda al terrore, all'orrore, al panico, come accade ogni volta nell'emergenza. Come sono ora mutate le cose? Quelle cose ormai gestibili, pianificabili, padroneggiabili, a ogni contrada, in ogni casa, in ogni ragionamento. Ognuno stupisce e si incanta nel suo stupore. Così pareva che Milano in poco tempo, essendo la peste così fieramente accesa, si avesse a consumare nell'incendio di essa, e che questa consunzione avesse già avuto luogo e che il tempo fosse già finito. Ah, Milano, puoi ancora chiederti come fare, come vivere. Tu, Milano, affamato, angustiato e bisognoso di essere continuamente soccorso per vivere dalle città, dai castelli e dalle povere ville d'ogni intorno, restasti come fuor di te, stupido, incantato. Così in quei principi specialmente abbassò l'ira divina in un tratto tutte le tue grandezze. O bontà e grazia di Dio, come sono ora mutate le cose, come sono subito riparate quelle rovine nostre. Come restituita la sanità, rinnovate le speranze della prima grandezza. Sono spiantate quelle case di assi e paglia, sono coltivate le campagne dove allora abitavano al sereno tante famiglie. Dorme sicuramente ciascuno nelle sue case. Sono aperte le botteghe, è restituito il commercio in tutto questo stato. Ne vi è causa più perché non concorrano come prima le genti da ogni parte. Le chiese, le contrade, le piazze sono piene di uomini. Non vi è luogo talvolta ad uscire. Vengono forestieri da lungi a vedere questa meraviglia. Ognuno stupisce. E chi non stupirebbe? Sapete pur voi che da principio, appena si sentì la voce che la peste era in Milano, che subito, parimente da ogni intorno e in ogni parte, pareva sempre risonassero voci della rovina di questa gran città. È caduta Babilonia, e tutte le statue dei suoi dei sono infrante sulla terra. Così profetò Isaia di quella gran città. Pareva che queste stesse voci si cominciassero a verificare di Milano. O tu, che siedi sopra le molte acque, ricca dei tuoi tesori, è venuto il tuo fine, il punto fisso del tuo eccidio. Che Dio operi e intervenga è chiaro nella linguistica del cattolicesimo e nella costruzione del cardinale. Come restituire la sanità, si chiede, non come assistere i moribondi. Anche la parabola, citata più volte nei documenti del Borromeo, di quell'uomo che, creduto morto perché colpito da peste e non morto perché non aveva ricevuto il sacramento dell'Eucaristia, è davvero bella. Nessuno muore, né cerca né vuole la morte, ma a partecipe del sacramento non le sopravvive risparmiandola. I sopravvissuti vivranno di morte. Saranno conculcati, come dice il Borromeo, nella morte e nelle infermità. Una morte partoriva l'altra, un'infermità l'altra, il morbo d'uno si propagava in molti. Ma ecco che la bontà di Dio in un tratto mutò le cose. Chi avrebbe mai pensato, umanamente, che dovessero le cose ridursi a questo tempo nel stato che ora sono? Che grande mutazione è questa! È restituita la sanità e la vita, e pare un nuovo Milano. Eravamo conculcati nelle morti e nelle infermità nostre. Una morte partoriva l'altra, una infermità l'altra. Il morbo d'uno si propagava in molti. Così andavamo morendo in questa miserabile infezione. Eravamo confusi, vergognati nei peccati cagione di queste ruine. Passò Dio, ci vide con quell'occhio suo paterno e con lui stesso ci diede la vita e la sanità. Rivestì le contrade, riempì le case, rasserenò i visi degli uomini, rinnovò la frequenza delle chiese, ha restituito i commerci, ha mutato tutta la faccia di Milano, di maniera che è in fiore e in giubilo come prima, e pare un nuovo Milano. Niente più vergognosi ricordi della vita passata, niente più attesa di una morte annunciata e ineffabile, niente più ricette o rimedi della stupidità, niente più umana consolazione. La vita non è passata, non è futura, non è presente. Non è questo l'eterno, non è questo l'attuale. Godete intiera sanità. La vita è attuale. Rivedeste similmente i figliuoli vostri sani. Fusti liberi alle case vostre. Godeste intiera sanità. Niuno si chiuse più le nari alla presenza vostra. Niuno aborrì di vedervi. Niuno fuggì di accostarvisi. Fusti sicuri e consolati nel mezzo dei vostri figliuoli. Vedeste questo popolo liberato universalmente. Non sentiste più nuova di questo o di quell'altro luogo dove fosse di nuovo entrata la peste. Purgaste la coscienza con la confessione generale di tutta la vita passata, e questa cessazione vi diede intelletto, vi ridusse al cuore, vi fece proporre una nuova vita. Leggendo il memoriale, colpisce l'assoluta generosità del cardinale. La narrazione della sua traversata. Nessun tentativo di spianare l'equivoco, di rettificare la menzogna, di dissipare il malinteso. Nessun tentativo di piacere agli uni e di non disturbare altri. Qualcuno può attribuirsi il merito dell'estinzione della peste? Non è la prudenza nostra, non è la scienza dei medici, non la diligenza di chi sia intorno agli infermi, ma, dice, la gran misericordia di Dio. Nulla di attribuibile agli umani. C'è da chiedersi se il Borromeo non ci stia restituendo qualcosa dell'originario e se la parola originaria possa teorizzarsi o scriversi prima o dopo e se, qualora trovasse i termini per scriversi, quell'istante possa essere scritto o se si scrive ciascuna volta ne venga restituito il testo. Come dunque sarebbe mai estinta questa peste sì gagliardamente accesa con così poca perdita d'uomini, se non per grazia e misericordia di Dio? Poiché infatti ella è di tal condizione che, e nella sua cura e negli effetti suoi, vi ha pochissimo luogo ogni umana prudenza. La prudenza, se fosse umana, graverebbe sul ricordo, senza nessuna chance per la salute. Di seguito, nel memoriale, indicazioni e la scommessa per la salute. Così, in una lettera al padre provinciale dei Gesuiti a Genova il 13 novembre 1576. Che quando anche alcuno ci lasci la vita, non si deve mettere a conto di perdita, poiché l'occasione è così importante. È la bontà dell'arcivescovo questa? Non è con la volontà di bene che non si perde la vita. È altruismo? La stessa volontà di bene assiste la morte dell'altro. Io ultimamente vi ammonisco, vi prego, vi scongiuro, che non siano in voi tanto vane le fatiche, le parole, i ricordi che vi ho dato, e in voce tante volte, e ora ultimamente inscritto con questo nuovo memoriale, e che la polvere dei miei piedi finalmente che ho usati per voi non abbiano mai ad accusarvi contro mia voglia di non aver fatto frutto. Quale frutto? La salute. Ma l'approccio dei contemporanei è sempre pestifero e mortifero. Intanto, la conta dei morti. A fronte di quella del 1524, dove se ne contano decine di migliaia, e quella del 1630, dove si sfiorano i 100.000, quella del 1576, detta appunto la peste di San Carlo, ne annovera dai 10 ai 18.000, a seconda delle fonti. Il lazzaretto, posto infame e situato alle porte della città, viene riorganizzato dal cardinale. Un padre cappuccino nota che egli va spessissimo al lazzaretto e par che risusciti le persone con la presenza sua. Carlo Bascapè, suo biografo, ne percepisce gli effetti, ma non è in grado di restituirne la narrazione se non nella convenzione agiografica. differente l'apporto di Fra Paolo Bellintani, che nel suo dialogo sulla peste, oltre che una cronaca di quanto vi accade e di un resoconto della gestione del lazzaretto, che raccoglie in quasi un anno di permanenza nella struttura, redige questo dialogo come informazione globale in fatto di peste. Vivevano in molti nel lazzaretto, ammalati e non. Quelli che non erano ammalati non necessariamente lo sarebbero stati, vuoi per il compito che avevano, assistenti, medici, fornitori, confessori, parenti, vuoi per l'architettura stessa del luogo. Celle non comunicanti, da una parte i sani, dall'altra i malati. Impossibilità di aggregazione. La chiesa era posta in mezzo, a pianta circolare, con le pareti aperte in modo che ciascuno potesse assistere alla messa anche da lontano. Il Bellintani ne fa una descrizione accurata, dall'interno, pensando che possa costituire un'esperienza utile in altre occasioni. Non sarà così. Niente a che vedere, però, con il memoriale di Carlo Borromeo. La descrizione del Bellintani è inconcludente senza l'invenzione del Borromeo. Ho obbligato, come sapete, i parroci a continuare nel loro ministero, ma non bastano per tutta questa moltitudine, nota il cardinale. La gente chiede i sacramenti come unica maniera di non soccombere alla morte. E anche i parroci hanno paura, ma non tutti, non ciascuno, non coloro di cui ancora viva la testimonianza. Alla necessità assoluta, il cardinale non si sottrae e chiede, cerca, supplica, espropria, fa incetta del necessario, senza rispetto alcuno del soggettivo e del personale. E riuscì questa incetta abbondante, riferisce Erri Pamonti, che i richiesti sarebbonsi vergognati di non secondare l'illustre esempio del loro pastore. E ancora, ecco gli effetti. Svanì anche l'accennata domestica diserzione, per divino volere, ammirazione della fermezza del cardinale e subitaneo mutamento di volontà. Tanto che chi partecipò a questa battaglia dichiarò di non volersene più allontanare, stante l'emergenza, e oltre. E pertanto raccontano che, appena ebbe egli visitato il lazzaretto e se ne tornò a casa, ogni domestica lautezza di vestimenti e tappeti comandò si vendesse a cavarne danaro con cui alleviare la inopia di tanti infelici quanti gliene erano caduti sott'occhi in quella stanza d'inaudite angosce. Ogni sua tenda, pagliericcio, materasso, lenzuolo, colà mandò, appena ritenuto lo strettamente necessario a sé e suoi. Quanti vasi poi di preziosi metalli si trovò avere, altrettanti consegnò alla zecca, da essere conversi in moneta. E perché col vieppiù infierir della moria crescea di pari passo la miseria, e quei provvedimenti omai chiarivansi insufficienti, si studiò supplirvi per ogni verso. Mandava cercatori in proprio nome per le città e le campagne, i quali vi facessero incetta di quanto era necessario. E riuscì questa incetta abbondante che i richiesti sarebbonsi vergognati di non secondare l'illustre esempio del loro pastore. Provveduto così alla urgenza del vitto, subentrò sollecitudine non meno penosa per sottrarsi che ciascuno faceva dal prestare la propria opera a soccorso degli infermi, il cui contatto veniva giudicato ed era infatti chiarito esiziale. Ond'è che gli stessi parochi e gli altri che da sagri voti si trovavano stretti a ritroso da principio prestavansi, indi cominciarono, lorché venivan chiamati per confessar moribondi e porger loro gli altri ecclesiastici soccorsi, cominciarono, dico, a tergiversare e ritirarsi. Fra gli stessi familiari del cardinale venebbero non pochi che, vedendolo rimescolarsi con gli appestati, quasi sfidando il contagio, lo abbandonarono, onde egli, a mirarsi crescere intorno il vuoto, avvisò trovare rimedio al duplice abbandono dei sacerdoti e dei domestici con chiamare a sé, promettendo larghe mercedi di presente e per il futuro, idonei collaboratori dalle pievi elvetiche. Sapeva quegli uomini per loro fisico, nonché per morale, essere più acconci a sfidare la paura della peste. E questa lue, per noi sì abominanda, parer ad essi poco diversa da febbre o scabbie. Così fu sapientemente provveduto che né a corpi mancasse l'opera di infermieri soccorritori, né all'anime quella di sacerdoti confortatori. E contemporaneamente svanì anco l'accennata domestica diserzione, per divino volere, ammirazione della fermezza del cardinale e subitaneo mutamento di volontà, a tale che i testei impauriti e fuggiaschi fecerglisi innanzi, reduci e profferitori dell'opera loro, dichiarando di non volerlo più abbandonare sinché s'avessero fiato di vita. Anche monaci che, col pretesto dell'istituto o adducendo altre scuse, s'erano sottratti, di nuovo chiamati, presentaronsi parati ad accompagnare l'arcivescovo ovunque fosse per andare, a costo d'averne a morire. Tra servi e ministri, ormai cresciuti a buon numero, 9 ne lesse Carlo destinati a stargli sempre a fianco, pronti a disimpegnare ogni sua commissione, ufficio tale da incutere spavento. Costoro e se medesimo, siccome sospetti di peste, volle che dai sani fosser evitati e che ciascun d'essi si recasse in mano una verga, la quale fosse segnale a non infetti di scostarsi da loro, che del contagio avrebbon di leggeri potuto essere trasmettitori. Dichiarando poi se medesimo sempre indiziato o sospetto, provvide che la sala ove soleva disbrigare le bisogne pubbliche fosse divisa in due da uno steccato, per guisa che egli, rimanendosene da un lato, parlava ad alta voce a coloro che stavagli discosti nell'altro. E però l'avvenuto andò tanto lunge dal temuto, che cioè il cardinale propagasse la peste, che fu notato né egli né alcuno di quei suoi collaboratori aver unque patito a quei giorni nemmeno un lieve dolore di capo. Da molti elementi il Ripamonti e all'accusa che il cardinale, per coordinare gli interventi, propagasse la peste, riferisce che fu notato che nessuno dei suoi collaboratori e nessuno di coloro che erano stati coinvolti aver unque patito in quei giorni nemmeno un lieve dolore di capo. Ciò non toglie che la partita si giochi giorno per giorno e che la peggiore insidia sia il dubbio attribuito a sé o all'altro. Molti, come se un fulmine li avesse tocchi, cominciarono a inorridire del loro ufficio. Certuni celevansi, altri scamparono dalla città. Venebbero che dichiararono non tenersi obbligati a così rischioso ministero. Questa pusillanimità la si riscontra anche quando il cardinale convoca per i vari sinodi e concili. Quante scuse, rimandi, impossibilità, giustificazioni, modestie, vergogne, riserve, nequitosa infingardaggine. Avanti le calende di gennaio, il pericolo di morte per peste sarebbe cessato. Questo il voto a San Sebastiano, enunciato, sebben non si avesse subitanea salute. Dappertutto stragi, e cumuli di morti, e aspetto di città maledetta da Dio. Si ricordò Carlo Borromeo allora del martire Sebastiano, per la cui intercessione da simile flagello la città era stata un'altra volta liberata. Reputandolo dal lato materno originario milanese, sperò che a cotanto malore della patria non verrebbe egli meno, ove puramente e piamente lo si invocasse. E pertanto, celebrate solenni preci in Duomo e convocato ai santi misteri il popolo, concionò l'atterrita moltitudine intorno al sussidio che doveva invocare dal martire ed insistette che un pubblico voto avesse a farsi in di lui onore. Affermò che avanti le calende di gennaio la peste sarebbe finita. Soltanto lo credessero, si astenessero dal peccare e fidassero nella provvidenza. Milano, a vedere indi come volsero gli eventi, ebbe a reputare quel vaticinio essere stato suggerito al Borromeo da Dio. Con ciò si accosa che, proclamato il voto, sebbene non si avesse subitanea salute, le stragi e i mucchi di cadaveri di giorno in giorno vennero scemando e il morbo, all'epoca annunciata, sparì. I milanesi al Santo Liberatore alzarono una chiesa nel sito ove erano le vestigia di una cappella statagli anticamente dedicata. La empirono di lor doni ed ogni anno la festa di San Sebastiano è celebrata nella città. Era scontata questa riuscita? Per nulla. Ma è ancora un evento, è ancora una sorpresa, è ancora una novità. Assoluta padronanza di Federico nel racconto, nell'intervento, nella spiegazione, nell'epilogo, a proposito della peste del 1630. La cronaca del Ripamonti e il resoconto dello stesso Federico sono indicativi. Proseguendo il cardinale nelle sue investigazioni, dall'alto della sua saviezza, della qual fece sì largo uso scrivendo ed operando, emise questa opinione rispetto alla origine della peste, che ella fu inflitta e per volere divino e per umane cagioni. Si valeva ad autorità d'Omero, del quale adoperarono filosofi gravissimi e padri santissimi, dimostrando che il sommo vate non aveva senza una recondita ragione rappresentato Febo in atto di vibrare suoi pestiferi dardi. E così, affermando egli che era stato il volere divino a siffattamente sferzare i mortali, studiavasi chiarire la nostra peste doversi ascrivere a decreto superno. Argomentavalo da ciò stesso che le tedesche schiere che avevano diffuso il contagio in città n'erano andate esse quasi che immuni. Né senza una misteriosa volontà l'esercito cattolico acquartierato a Casale aver ricevuto quotidianamente vettovaglie da qui mentre la peste ci tribolava senza andarne esso infetto. Certi luoghi e certi uomini trovare un dato rimedio contro del tremendo male, altri ricorrere con buon esito ad altro rimedio, ed a morbi diversi aver soggiaciuto chi dalla peste era ito sciolto. Tanto che nel recinto del Lazzaretto, quella notte che per la inondazione avrebbe potuto di leggeri riuscir suprema ai rinchiusi, niuno dalla furia dell'uragano fu spento. E però la peste quasi che tutti indi li rapì. Era cioè destinato che quei meschini non solo perissero, ma di peste perissero. Così rimontava egli al divino beneplacito per spiegare le cause e gli inizi della moria. Quanto poi alle cagioni umane, ne ragionava al modo seguente, poco discosto dal riferito. La peste, diceva, provenne dalla carestia e la carestia si generò nella sterilità dei campi, originata dalle militari devastazioni e dalle intollerande violenze di che gli stranieri avean afflitte le nostre terre, sendo che la razza lombarda è dilicata e forte nel tempo stesso, naturalmente gagliarda, come attestano le storie, a sostenere guerre e fatiche, per riscontro mal riuscente a sopportare i tedi inflittile dall'altrui corruttela e superbia, provenirlene più pungente la sensazione dei mali, e nella facile disperazione dei medesimi trovar la peste meglio parati alimenti. Queste erano le opinioni del cardinale relativamente alla origine del contagio, riferentisi, come vedemmo, non meno alle cagioni divine che alle umane. Discostissimo dall'opinare che derivasse da frodi, artifici o cospirazioni di stranieri principi desiderosi di spopolare la città per indi occuparla. Assoluta credenza nell'idea di contagio, di diffusione programmata, di manifestazione del castigo divino, ma soprattutto di sacrificio e di accettazione. Bisognava però preservare per il futuro beni materiali e spirituali che avrebbero dovuto ricostituire la schiatta degli uomini. Ma da che il contagio aveva preso a insinuarsi e a diffondersi in modo sempre più pervasivo, perché non si estinguesse l'intera categoria degli artigiani della città, avrebbero dovuto inviare i maestri e i più abili esponenti di ogni settore in località salubri e colà mantenerli a spese dello Stato. Da parte nostra, all'insorgere dell'epidemia, considerammo attentamente quali fossero, nella totalità del clero, gli elementi migliori e più validi, e costoro, purché non fossero impegnati nella cura delle anime o in altri incarichi analoghi, li inviammo fuori città. Ancora un'altra citazione, prima di congedare Federico, rispetto alla apocalittica pestilenza del 1630. Nel capitolo quinto, i metodi per diffondere la peste e la loro origine. Dopo aver raccolto ipotesi e dicerie, conclude. Tutte queste erano le storie che circolavano, aneddoti che noi non intendiamo confutare né avallare. Ciò nonostante, siamo inclini a ritenerne fondate molte. Alessandro Manzoni giudica più efficace la pestilenza del 1630 per intrecciarla nel suo romanzo. E nonostante sottolinei la non precisa cronaca dei fatti da parte degli storici, compreso il Ripamonti, tuttavia accoglie il mito instauratosi a proposito di San Carlo nella peste del 1576. Tra le memorie così varie e così solenni d'un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d'un uomo, perché a quest'uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora di mali. Marco Formentini non tollera né il modo né la misura dell'intervento carolino e nel suo libro La dominazione spagnola in Lombardia non gli risparmia nessuna accusa. A proposito delle quali, Agostino Gemelli fa un'analisi medico-filosofica sociale e giunge alla conclusione che, dati gli errori dell'epoca e l'ignoranza e le superstizioni in materia medica, la peste di San Carlo così è denominata poiché il santo si prodigò per gli ammalati. Abbiamo avuto modo di leggere qualcos'altro nell'opera di Carlo Borromeo, senza necessariamente dover associarla e condizionarla all'epoca. O Milano, tante città e popoli, solamente sentendo parlare da lungi della tua peste, dei tuoi pericoli e spaventi, si sono vestiti di sacco, si sono coperti di cenere. Poi, tante città e tanti popoli hanno sentito parlare del beneficio miracoloso della sanità. O Milano, tante città e popoli, solamente sentendo parlare da lungi della tua peste, dei tuoi pericoli e spaventi, si sono vestiti di sacco, si sono coperti di cenere, hanno digiunato, hanno fatto processioni a piedi nudi, hanno riformato molti abusi, hanno bandito molte dissolutezze, hanno dato vari testimoni di pentimento e emendazione. Se tu non fai veri frutti di penitenza, quanta necessità ho io di dirti sin ora da parte di Dio, ve tibi, ve tibi, guai, guai a te, che sono tante città castigate severamente da Dio, nelle quali se egli avesse fatto i segni e parlato a loro con quelle voci che ora ha risonato in te, visitandoti prima col flagello spaventoso della peste, poi con il beneficio miracoloso della sanità, forse avrebbero fatti frutti di penitenza e non avrebbe poi a sfogarsi sopra di loro la giustissima ira sua. Certo è, dilettissimi figliuoli, che Dio aborrisce il peccato dell'ingratitudine e tien conto minutamente dei buoni o mali riconoscimenti nostri verso le sue grazie. Ora odi tu, o città di Milano, guardati di gloriarti superbamente della sanità che ora godi in questa tua bellezza, della quale sei rivestita di nuovo solamente per beneficio di Dio. E siano a te, Milano, per un ricordo e memoriale, a ciò che ti mostri grato del beneficio ricevuto, e da questa gratitudine ne cavi frutto salutare. Odi tu, o città di Milano, guardati di gloriarti superbamente nella sanità che ora godi, in questa tua bellezza della quale sei rivestita di nuovo solamente per beneficio di Dio. La sanità non ha durata e non è gratuita. Non finisce e non si perde. E non è per merito diretto. Occorre Dio come operatore per la sanità, la salute e la vita nostra. Romanzo di San Carlo Borromeo. Le opere e i giorni di un intellettuale milanese. Di Fabiola Giancotti. Hanno partecipato Elda Olivieri, Giorgio Bonino, Claudio Moneta, regia Roberto Musacci. Programma registrato presso gli studi Jolly Master di Milano. Titolo, autore, bibliografia di ciascun brano inserito nel testo sono documentati nelle note e negli apparati del libro di Fabiola Giancotti Per ragioni di salute, San Carlo Borromeo nel quarto centenario della canonizzazione, 1610-2010. Il Club di Milano, Spirali Edizioni, Milano 2010.